9 in punto, la versione di Oscar. L'attacco iperacustico, ma lo riconoscete, è sempre The End of the Doors, anche in questo post Natale 2011, in questo San Stefano si dice in veneziano, a dire la verità, ve lo ripropongo perché è una cifra degli ultimi mesi di questa trasmissione. In diretta Oscar Giannino, oggi un appuntamento diciamo un po' diverso da quello tambureggiante che vi abbiamo proposto nelle ultime settimane, sempre inseguendo con i Doors il sottofondo, le crisi, lo spread, la consapevolezza che ho tentato di martellare nelle vostre teste, accusato di essere anche un po' troppo iperpessimista sul fatto che il mercato aveva ragione di considerarci il detonatore possibile dell'euro. Vedremo tra qualche giorno se l'edi spread si prende un po' di respiro oppure no. Io scommetto che di no, ma comunque, detto questo, oggi sarà una puntata invece un po' diversa dal solito, perché ho pensato che nel post Natale, nella lunga digestione che vi aspetta, mi sono astenuto dal partecipare a grandi abbuffate conviviali, ma il più di voi non hanno saputo dire di noi. E allora mi sono detto, coerente alla mia bella tradizione di Bastian Contrari, come si dice in Piemonte, tentiamo di solleticare l'acidità, che di stomaco magari è ancora molto pesante, con qualche riflessione controcorrente. E siccome vi è meglio se i Bastian Contrari sono in due, magari la pensano diversamente, me ne sono scelto uno che ad occhio da un po' di tempo, seguendo quello che fa. E questo Bastian Contrari è la persona insieme alla quale in questo giorno, dai ritmi sicuramente un po' più lenti del solito per tutti voi, tenteremo di stuzzicare il vostro stomaco già provato, per così dire, non solo da ciò che al convivio avete manducato, ma magari anche da coloro con cui avete diviso il convivio, perché si sa, le famiglie sono cose sante, ma come tutte le cose sante bisogna averne un'esperienza limitata, solo per che quando le virtù sono così alte, non tutti le possono avere. Le virtù alte praticate dalla massa diventano pantomima, e spesso la famiglia italiana diventa l'abbandono di una elevata virtù e diventa pantomima per tutto. Quindi il giorno di Natale si finisce per dare punta alle passioni della reciproca intolleranza invece che stemperarle, tanto per dirne una. Ma insomma, chi è questo ospite con cui oggi tenteremo di farvi passare un 26 mattina un po' in controtendenza? Si chiama Fulvio Abate, e da qualche anno tutte le volte che io lo vedo, lo sento, lo ascolto, lo guardo fare delle cose, mi interrogo e mi dico: mi sta sempre più simpatico questo signore. Fulvio Abate è un palermitano che vive a Roma, è uno scrittore, vi ricordo i titoli di alcuni suoi romanzi, ha scritto Zero Maggio a Palermo, Oggi è un secolo, Dopo l'estate, La peste bis, tutti questi sono usciti negli anni 90. Poi per Baldini e Castoldi nel 2002 pubblica un titolo che tornerà da allora in poi nella sua produzione, Tele Durruti. E perché tornerà? Perché questa Tele Durruti è la sigla, è il titolo, è come vogliamo chiamarla, è la televisione in monolocale, come la chiama lui, con tanto di sito che trovate adesso intitolata, è aggiornato una o due o anche tre volte al giorno. E la televisione in monolocale è una delle cifre, per esempio, dal 2007 ha ridato in vita in rete a Tele Durruti di Fulvio Abate. Poi, tanto per farla breve, mi è simpatico questo personaggio perché è stato opinionista a ruota libera e mi è sempre piaciuto quello che scriveva in giornali tra i più vari e diversi, ed è proprio il cavalcare giornali vari e diversi quello che un po' fatto anch'io prima di abbandonare quasi quel tipo di attività, perché è stato Fulvio Abate opinionista all'Unità, è stato opinionista sul Foglio, dove aveva una bellissima rubrica che mi interrogava molto, era dedicata ai conformismi. E poi non dimentichiamo che all'origine di tutto per Fulvio Abate c'è uno dei posti mitici del giornalismo progressista di sinistra, c'è la redazione dell'Ora di Palermo tra la fine degli anni 70 e la fine e l'inizio degli anni 80, e ha usato anche a un certo punto uno pseudonimo femminile invece che Fulvio Abate, Fulvia Abate, per un'altra rubrica che mi piaceva molto. E oltre a tutto questo, oltre a scrivere e a criticare e a commentare personaggi e fatti del giorno, nell'ultimo periodo lo vedete spesso su La Sette, ospite di Antonello Piroso, le ultime due cose sono il manuale italiano di sopravvivenza, come fare una televisione monolocale e vivere felici in un paese perduto, e questo appunto è dell'anno scorso, in cui ha raccontato un pochino questo progetto, questo sogno di Tele Durruti. E poi c'è stato un Pierpaolo Pasolini raccontato ai ragazzi qui in questo 2011, e adesso ovviamente ecco la coerenza del gattaro Giannino che torna, e in questo Natale ci ha regalato una operina divertentissima che io ho anche regalato, perché è la storia di un gatto, la storia di una micia bianca e nera che si chiama Trappi, e il libro si chiama Le avventure di Super Trappi, e Fulvio Abate l'ha scritto facendolo illustrare anche a Carla Abate, che è la bambina che ha avuto 2003. Allora, tento di questa introduzione, convinto che alcuni di voi, parecchi di voi sappiano chi è, e quindi grazie a Fulvio Abate per stare con noi questo 26 mattina. Grazie a voi, mi sentite? Sì, grazie, sì, sì, te, sì, sentite tu, sentiamo tutti perfettamente. Perfetto, ecco, grazie di questa, non ero mai stato presentato Vedi. In modo così esaustivo, sono veramente imbarazzato pur essendo al culmine del mio narcisismo in questi giorni. L'unica cosa che va aggiunta è che io sono anche un martire, oh. Nel senso che sia dall'Unità sia dal Foglio sono stato poi cacciato. Questo è necessario che sia detto, esatto. Perché tutto questo ha fatto di me il Solzhenitsyn del, diciamo, del giornalismo italiano, pur essendo io uno scrittoio, come direbbe Franzi. Allora, da buono scrittoio, iniziamo a commentare. Giorgio Bocca se n'è andato. Io, come sempre, il giorno dopo, quando scopro che tutti siamo melassamente tutti quanti uniti nel dire viva viva chi se n'è andato, io devo dire la verità, a me è sempre sembrato fuori tiro, però magari sbaglio. A me, io non amo molto quelli che dicono che gli italiani hanno una tara nel DNA, e Giorgio Bocca insisteva tanto quando era anticraxiano, tanto quanto era antiberlusconiano, tanto quanto faceva il partigiano nel senso il nostalgico dei partigiani in montagna, c'era sempre questa vena del fatto che c'era un pezzo d'Italia di italiani indegni, e questa roba a me non ha mai convinto. A te, Giorgio Bocca, che impressione ti faceva? Allora, in due parole, nel 92 io scrissi un libro che parlava di mafia, raccontando l'esperienza dei... mi fa iniziare parlando seriamente, ma va bene anche questo, raccontando la vicenda dell'associazione anti-racket di Capo d'Orlando, e trovai singolare che Bocca, da piemontese, non capisse il perché Falcone, giudice, non volesse essere chiamato dai mafiosi signor Falcone. In Sicilia se ti dicono signore, signor Giannino, non riconoscono a te alcuna autorità. Esatto. E quindi non era un vezzo da laureato quello di Falcone. E in questo mio libro, diciamo, fui anche abbastanza polemico nei confronti della sordità di Bocca. Col tempo che è passato, devo dire, l'ho sempre sentito più vicino, anche in questo suo, diciamo, fremente sdegno antimeridionale, diciamo, perché anch'io dopo, io da palermitano, dopo 8 ore trascorse nella città dove sono nato, ne sogno il bombardamento al napalm dopo 10 ore, quindi mi va bene anche, diciamo, la veemenza, anche quello che ha detto su Pasolini, ritenendo che l'omosessualità sia una cosa, io non lo penso ovviamente. È meraviglioso che quest'uomo a un certo punto abbia deciso di essere se stesso con i propri umori, questo dal punto di vista, credo sia un diritto di chiunque, insomma, poter svaccare. E diciamo, chi vede il sito di Teledon Ruti vede che spesso, come hai appena detto, si svacca, ma si svacca per esprimere opinioni le più taglienti possibili. Cioè, perché usi così tanto Giorgio Bracardi ultimamente? Che lo ricordo a tutti i nostalgici, a noi arboriani, era il mitico personaggio tra i tanti che faceva lo squadrista per radio ad alto gradimento e così via. Beh, lo uso perché Teledon Ruti, oltre ad essere, diciamo, una televisione che ha l'obiettivo di rendere felice almeno un uomo sulla terra, il suo inventore, e tende anche a mettere al suo interno una quadreria di, diciamo, di volti e di voci in grado di raccontare la storia del costume italiano. Quindi per lungo tempo, finché non è scomparsa mia madre, è stata una voce importantissima di Teledon Ruti. Bracardi, come altri, come ad esempio, sono felice di aver ritrovato la bambina, adesso una signora, che interpretava l'angelo nei film di Pasolini. Tutti rammentano questo bambino, questa bambina straordinaria. Ecco, solo per questo. E Bracardi mi sembrava che abbia donato fior di ironia a questo nostro paese. No, beh, io, guarda, una delle cose, dei miei best di questi ultimi giorni, è il contributo in cui ha postato col titolo Vinicio Capossela è ormai un vecchio scarpone di banalità musicale di sinistra, perché siccome non ne posso più da anni io di Vinicio Capossela, allora devi a questo punto esporre la tesi che hai. Allora, la tesi è molto semplice: io sono stato comunista, tu non hai raccontato il mio iter politico. Vero. Sono stato militante di servire il popolo, poi mi sono, diciamo, spostato verso posizioni di socialismo libertario, ma ormai rispondo unicamente alla mia memoria aristocratica e pretendo che mi si chiami Marchese, perché non sopporto... Hai messo un post, infatti, in cui vai in una chiesa su una tomba di un tuo avo, in cui si legge che è un marchese. Il marchese Ignazio Abbate di Lungarini, omonimo di mio padre. Come vedi, ho studiato, mi sono documentato. Ecco, e allora, il caso di Capossela, io, il fatto che Capossela possa essere bravo, caro Oscar, è un aggravante. Oh, beh, diciamolo. Ecco, è un aggravante. Io trovo, ed è legittimo che a me possa, che ne so, certi critici ritenevano Sidney Bechet, maestro del clarinetto jazz, belante ottocentesco. Io trovo che, a suo modo, Capossela sia un belante per le anime belle di sinistra. E fin qui tutto normale. Il problema è che intorno a Capossela c'è una sorta di culto che neanche il vitello d'oro ha mai conquistato, bravo. Per cui ti minacciano anche di morte. Sono in solluca. Però non è finita qui. Negli ultimi tempi, molti anche di devoti di Capossela si sono resi conto che il loro beniamino è assai peggiorato, e quindi una parte di ragione cominciamo a conquistarla noi. Però dobbiamo comunque sempre camminare scortati H24. Ora, essere accoltellati dai fan del Capossela. Allora, entriamo in un luogo delicato, quello dei luoghi comuni culturali. Perché ti potrei dire che tutte le volte che tu torni su Pasolini, in realtà commetti anche tu un delitto di iterazione di luogo comunismo culturale di sinistra, o no? Hai perfettamente ragione. Il problema è che ciò che noi desideriamo dire, la nostra versione di Pasolini in questo caso, poi viene tralasciata a favore della vulgata corrente. Che cos'è Pasolini in questi ultimi anni, se non una sorta di Padre Pio, diciamo, del pensiero civile di sinistra? Posso dire, adesso io lo voglio estremizzare, una specie di confuso vessillo del nichivendolismo, cioè, non lo so, Santa Maria Goretti non omofoba innestata su Padre Pio con le stimmate, è una cosa che io, perché poi la vedo coniugata a sinistra in tutte le salse, dall'anticonsumismo che c'era, perché cazzo, questa è una delle cifre fondamentali dell'intellettuale Pasolini, nostalgico dell'Italia pre-boom, e di quel non della povertà, ma del fatto che c'erano radicamenti culturali che sparivano, ma dall'altra parte tutto questo tentativo di ridurlo a una roba a cui Pasolini non può essere dotto. Pasolini era il suo tempo, la sua fascistissima società impregnata di luoghi comuni, voglio dire, che dicevano se sei, vai con i ragazzi, allora eccetera eccetera, ma non può essere nichivendolismo dei nostri tempi il non nucleare Pasolini, cioè non so come dire, sbaglio. Allora, intanto Pasolini aveva un dono pagabile, aveva il coraggio, da una parte. Ti rispondo citando l'ultimo Pasolini, poco prima di morire Pasolini incontra un rapporto con i giovani della Federazione Giovanile Comunista Romana. Chi sono questi ragazzi ventenni? Sono Adornato, sono Walter Veltroni, poco più grande di loro Gianni Borni, e dice loro: si applaudono sempre i luoghi comuni, mentre voi dovete essere una contestazione. Beh, insomma, coloro che hanno, diciamo che non lo hanno ascoltato bene. E nella sua forma, diciamo, modello base opera San Vincenzo, sono proprio questi Veltroni in primo luogo. E quindi, ma questo non tocca la grandezza di Pasolini, il coraggio di Pasolini nell'esporsi in prima persona, perché io c'ero allora e mi ricordo cosa rappresentava Pasolini ogni qualvolta apriva bocca nel senso della sua bocca. Non di Giorgio ovviamente, sì. Però è diventato un classico, insomma, voglio dire, è come un po' Capossela. Adesso lo so che tu dici no, Pasolini è un'altra cosa, io invece non sono abbastanza convinto. Io sono diventato laico, fra l'altro Tissò repubblicano, e questo mi fa piacere perché mio padre era repubblicano al congresso in cui la Malfiani e Pacciardiani si menarono a Livorno, esatto. Distrusse buona parte degli arredi del Teatro San Marco e poi dovette ripagare perché litigarono, si menarono a morte. Ecco, quindi insomma mi stai nel cuore anche per questa ragione. Da laico ti dico, io ho scritto un libro che è uscito da pochissimo, Pierpaolo Pasolini ha raccontato ai ragazzi, nel quale spero di non dire di non cadere banalità. Nel logo comunismo, sì, ecco. Sì, spero. Uno degli ultimi contributi su Tele Durruti è un, diciamo, siccome siamo in ora un po' così del 26, non uso il termine giusto, che sarebbe vai a quel paese, ambizione sociale, in cui c'è una specie di perfetto cameo di una persona che deve decidere. Io ho pensato che fosse un classico intellettuale italiano, un classico intellettuale che magari di quelli che scrivono si prestano anche per scenografie, per sceneggiature, perdona, di film, per decidere se devono frequentare il tale produttore e a trovare a casa del tale produttore politico, e c'è un'alternativa: devo andare a casa di quello che conta molto, oppure, e naturalmente viene scelta questa ipotesi, invece poi al supermercato, anzi avvicinandosi a un supermercato, perché è saltato un bottone all'abito che bisogna mettere per andare nella casa di chi conta molto, si incontra una donna. Esattamente, si incontra una donna, e a quel punto c'è un'alternativa, ma la donna che non si vede da tanti anni, un'apparizione meravigliosa, oppure la casa di chi conta. Allora, perché gli intellettuali italiani hanno questa cifra apparente di preferire le case di chi conta? Dici bene, perché sono dei camerieri del potere. Siamo dei camerieri del potere. Io per indole, dovunque mi trovi, devo essere me stesso, devo poter parlare così come parlo con i miei amici e con le mie amiche. Proprio non ce la faccio. Mentre ti devo dire che io ho frequentato pochi, ma alcuni salotti li ho frequentati, diciamo, progressisti, e il livello della conversazione è estremamente bassa. Per quale motivo? Persone, diciamo, di ingegno eccelso come me e te, ci siamo anche incontrati una volta, soffriamo perché noi siamo pura luce, mentre loro al massimo si dicono andremo al concerto di Capodanno a Venezia, oppure commentano quello che l'amico è andato nel CDA della Rai. Capisci bene che noi vogliamo essere puro Eros o Thanatos, e mentre loro ci schiacciano, e quindi è meglio andare con Liliana, che ritrovi e diventa un reverie, la chiama Gaston Bachelard, metafisica dell'indimenticabile, torni all'Eros, perché e quindi io non ce la faccio, sinceramente fuggo dopo un poco dal salotto che... Eppure il fuggire, che è una grande categoria del pensiero non solo occidentale, soprattutto orientale, ma insomma la mistica del levare invece che dell'aggiungere, così antinatalizia, così avversa a questo tumulto gastrico che rappresenta per i più il Natale. Per me il Natale da parecchi anni è una roba in cui invece mi esercito nel digiuno, ma la mistica del levare è proprio contraria anche alle carriere giornalistiche. Io questo l'ho sperimentato commentato con mano, cioè nei giornali italiani che hanno nella libertà politica, in realtà poi ci cacciano a noi trasversali, è capitato anche a me, però la parte dell'economia è irregimentata, cioè la libertà dell'informazione economico-finanziaria è molto limitata, a me tocca dirlo perché l'ho sperimentato un po' in tutti i giornali, e lì proprio per diventare vice direttore, per entrare nel ristretto circolo di chi poi può ambire a diventare direttore di un grande giornale eccetera eccetera, c'è poco da fare, devi esattamente fare il contrario di quello che dici tu nel tuo contributo, devi prendere il tuo bottone, metterlo con l'ago, il gomitolo giusto se ti è saltato sull'abito Yamamoto, e andare nelle case del banchiere giusto. Ne conosco tanti che sono direttori a vita avendolo fatto così, proprio ne conosco anche degli tanti. Idioti diciamo internazionali, aggiungo, e come no, me ne vengono in mente alcuni, proprio la mediocrità assoluta anche sul piano del pensiero. Ohimè. Senti, Scavallo, cosa pensi del fatto che Bergamo, vero, la città che ha dato i natali a centinaia di garibaldini, non ci sarebbe l'Italia unita visto che ci avviamo alla fine del 150°, però Bergamo anche così intrisa di superiorità nei confronti dei terroni eccetera, Bergamo deve abbassare le bandiere perché Cristiano Doni e l'Atalanta corrompevano loro il calcio, insomma i terroni del calcio sono a Bergamo, come la pensi? Non penso a nulla, perché noi signori non seguiamo il calcio. Bravo. E sinceramente, cioè, sai, il problema del calcio, la sua funzione è quello di consentire anche al più idiota di avere un'opinione sul mondo, di sentirsi per un attimo Spinoza o Cartesio. E io sinceramente non ce la faccio, cioè è più forte di me, lo so, Pasolini, le poesie di Saba e tutto quello che... Ma io non ce la faccio, non sono obbligato. Posso chiuderla qui? Certo, devi. Allora, affermazione di Leo Longanesi. Sono un uomo inquieto, uscito da una famiglia quietissima. La quiete mi annoia, l'inquietudine mi irrita. Cerco una via di mezzo, ma la cerco dove sono sicuro di non trovarla. Ora, Leo Longanesi era un grandissimo figlio di buona donna, perché con Calembour non riusciva mai a far capire in realtà come la pensava. Non era proprio uno di quelli, tranne che sotto il fascismo, che si schierasse con soddisfazione. Detto questo, tu sei per la quietezza o per l'inquietudine? No, io sono l'inquietudine allo stato puro. Per indole, infatti, non solo non farò mai come con la cosiddetta carriera, ma sono anche ritenuto un idiota, da una parte, dall'altra sono ritenuto un ingestibile come tale, ma soprattutto, dirò una cosa serissima, si ha paura di chi non ti dà la sensazione di temere per la propria... Io sono molto libero, non riesco ad essere... E chi appare in tutta la sua libertà, anche infantile, viene ritenuto un cretino, oltre che inaffidabile, e quindi ti tengono lontano, insomma. Essere tenuti lontani può essere che sia una delle radici del nostro così evidente senso di superiorità, questa è la mia convinzione, lo so che sembriamo due matti a dirlo, però in definitiva lo cambiamo di più e è meglio il mondo, ammesso che sia un buon fine volerlo per forza cambiare, perché mi sembra anche un vasto programma, ma lo si cambia di più e meglio partecipando solo alle cose collettive e no, con gli uomini comuni o no? Esempio tecnico. Allora, anni fa io proposi all'Unità un articolo che era intitolato Ingrid Betancourt è una stronza. Non me lo fecero fare. Lo proposi al Foglio, non me lo fecero fare. Grazie a Teledur Ruti, che è il mio guscio di noce, la mia televisione, io questa cosa l'ho messa agli atti, diciamo, mediatici. E quindi quando poi il tempo ha dato ragione, perché tutti hanno dovuto constatare l'inattendibilità della signora Betancourt, ma questo io mi sono salvato, ho salvato il mio pensiero, la mia parola, non che sia così importante, no, certo. Grazie al fatto di essermi dotato di un luogo dove nessuno, lo diciamo in romanesco, dove nessuno può impedirmi di esprimere il mio pensiero. Ora andiamo in pubblicità, questo amaro prezzo che dobbiamo al fatto che dobbiamo pure essere pagati, ragazzi. Ci contavo cari ascoltatori, raffiche di malmostosi atalantini che mi dicono che Doni è laziale, non è lombardo. Avevo visto altre reazioni nei primi giorni, però, sui giornali sportivi che glorificavano che Bergamo e l'Atalanta era immune da questo genere di cose. Altri difensori di Vinicio Capostella invece si scatenano e rabbiosamente invocano per me l'espulsione dalla rete, perché Vinicio non si tocca. Giannino, vai a dormire tu. Ci contavo, ragazzi, su questo 26 26 dicembre capace di farvi scoprire che c'è di peggio che la cattiva digestione di un 25 troppo pesante. C'è anche la possibilità di un 26 in cui ci si incroci con qualcuno che abbia opinioni diverse. Questo grande esercizio che è diventato tanto sconosciuto e così poco pratico per tanta parte della società italiana, convinta di star seduta sul giusto. Giusto è la propria parte. Tutti coloro che non la condividono sono naturalmente gli oggetti di una campagna, di una crociata, ma che dire, di un anatema, di una scomunica, perché sono loro i colpevoli del fatto che l'Italia sarebbe eccetera eccetera eccetera, consueto logo comunismo sul fatto che poi se l'Italia va giù è per colpa degli altri, mica per colpa mia o per colpa del fatto che magari ci abbiamo qualche colpa condivisa tutti. Di questo e di tanto altro parliamo con il magico inventore e interprete quotidiano di Teledurruti, una televisione in un monolocale, ma poi tanto monolocale non è, su, perché dalle avventure di Super Trappi si capisce che la casa mi sembra che abbia un suo articolazione, o no? No, ti dico, allora, all'inizio io usavo un'altra immagine, una televisione formato fototessera, che mi sembrava straordinaria dal punto di vista proprio magico-poetico, e invece non ha mai sfondato questo modo di dire. Un giorno mi sono detto, ma se c'è la televisione locale, quella dove vendono le pentole, almeno vendevano le pentole e facevano vedere i dildi a notte fonda, ci sarà pure una televisione monolocale. E tirai fuori questa frase che ha spopolato, ma fa, quindi io mi sono reso conto che la semplificazione da pubblicitario è vincente. E quindi no, poi la casa no, questa, la casa è una reggia enorme, insomma, ci muoviamo con i landò dentro casa, ovviamente. Vedi, perché però una cosa ci tengo a dirla: alle spalle di Fulvio Abbate c'è un quadro di Mario Schifano, futurismo rivisitato a colori, che è un'icona diciamo, della pittura degli anni italiana degli anni 70, perché Schifano, diciamo, è idealmente presente, lui avrebbe dovuto disegnare il logo di Teledurruti, è morto poco prima, e quindi io lo tengo nel cuore, era un caro amico, sono contento che attraverso questa sua immagine lui continui ad esistere, insomma, se ne perpetui la memoria visiva. Posso dire che da quello che ho letto di ciò che scrivevi negli anni 80, inizio degli anni 90, di arte contemporanea italiana e internazionale, non so se hai messo ad altrettanto severa autocritica questo tuo pensiero sull'arte contemporanea, perché io ricordo di aver letto pezzi su Milan Kundz, Piero Manzoni eccetera eccetera, che a oggi mi sembrerebbero pieni di un eccesso di ottimismo e di generosità. Non sei stato abbastanza autocritico? No, allora, no, se ho peccato, io sono stato anche un critico d'arte militante, se ho peccato in qualcosa, ho peccato nel fatto negli anni Ottanta di credere nella dittatura dell'angolo retto, ovvero che l'arte, l'astrazione, l'arte d'avanguardia minimal ci avrebbe salvati, diciamo, dall'orrore del mondo. Questa è stata una cosa, una stronzata assoluta. Esatto. Rispetto invece a vedi che l'hai detta l'autocritica, vedi che l'hai detta. Sì. Rispetto invece a quelle altre cose, a quegli altri artisti, sono artisti che dicevano i futuristi che l'arte deve avere anche un ruolo di rallegramento. Un quadro di Milan Kundz, artista cecoslovacco di figurazione internazionale, nato nel 47, quindi parliamo di una persona giovane. Giovane, diciamo. Certo. E in casa è una meraviglia, così come un quadro di Schifano. Se poi vuoi che entriamo nello specifico, lo faremo in altre sedi, diciamo così. No, è un peccato perché io sono convinto da quando ho raggiunto la maggiore età che la separazione del gusto di massa dal gusto delle avanguardie artistiche sia uno dei motivi per cui la gente è così infelice nei nostri tempi. Il fine non del bello, ma insomma in qualche misura dello stimolo al bene, un bene che è quello eudaimonologico, quello della felicità, non è il bene etico da produrre in questo caso. In qualche misura l'arte deve sempre averlo, e questa separazione assoluta tra l'avanguardia e la cifra della sensibilità artistica di massa, per cui alla fine è Ballando sotto le stelle o qualcosa di simile ciò che poi fa il grande ascolto. Allora, dimmi un quadro che tu terresti in casa con, diciamo, di autore contemporaneo, un quadro, un'opera. Ma io, per esempio, gli stessi teschi che fanno tanto discutere di Hirt eccetera, per esempio un bel teschione di quelli li terrei, a dirti la verità, cioè, non sono... Sì, quello che li incastona con le pietre preziose. Sì, no, ma non per il valore delle pietre. Ma sì, però, certo, però è chiarissimo, infatti, chiarissimo. Quindi... Poi ovviamente... Esiste tanto pensiero corrivo rispetto, esatto, alle, come per tutto, rispetto all'arte contemporanea. Però no, non credo che Schifano facesse parte. Schifano è uno che è riuscito a piazzarsi in tutte le case, anche dell'ignorante, sì, con i suoi quadri. E lui diceva: io voglio essere in competizione addirittura con la rotativa. E questo lo rendeva... Tanto Cunellis, poi la chiudiamo subito perché sono argomenti noiosi. Sì, tanto perché Cunellis, ci perdiamo tutti, per così dire. È stato avaro, un'opera assoluta destinata al museo, quanto Schifano invece proprio sparava le sue opere al mondo come fossero stati sacchetti della spesa. Chiuso. Allora, domanda, non ti chiedo come hai trascorso il Natale. In pigiama, ho finito. Ah, perfetto. Ti imbarazza o ti colpisce o che cosa ti evoca il fatto che ho oggi il 70-80% dei prodotti, quali natalizi, cioè dai Babbi Natali alle cose eccetera, sia in realtà tutto made in China, o è un'inevitabile cosa che a me riempie di gioia il fatto, per esempio, che queste inevitabili, necessarie brutture in realtà servano a dare più reddito a chi ne aveva così poco fino a ieri. A te? Guarda, ti dirò una cosa, uno degli oggetti, diciamo, più belli dell'artigianato festivo siciliano è il ventaglio di Santa Rosalia. Era fatto con una serigrafia ricoperto di raffia e con un bastoncino fatto con un bastoncino di carta. E non mi dirai che si fa in Sicilia oramai. Sono ormai introvabili. Io ne ho trovato uno in un mercatino, in un negozio, e l'ho acquistato. Purtroppo i berretti di Natale che fabbricati in una città della Cina, perché poi vengono tutti da questa città di cui non ricordo il nome, mi hanno ucciso il ventaglio di Santa Rosalia. Mi piacerebbe allora che anche in Cina li producessero, perché quelli, se tu gli dai una cosa da fare, te la fanno uguale, insomma. Però il problema è che Santa Rosalia, secondo te, è indipendente dal fatto che in questa fase c'ha meno seguaci, o sta semplicemente sperimentando pooi la gioia di vederli pentiti tra un giorno o l'altro redimersi e rimettersi in ginocchio di fronte alla sua icona? Ma cosa dici? Santa Rosalia è solo l'esistenza della mafia nel mondo. La grotta di Santa Rosalia di Palermo, su Monte Pellegrino, se potesse parlare racconterebbe tutti i più significativi segreti, diciamo, di mafia, non soltanto degli ultimi 60 anni. Ah, quindi non è deserta, per così dire. Ma nella maniera più assoluta, no. Senti un po', ma sì. Tu perché non stai militante a Palermo, te ne sei venuto a Roma? Allora, dice Francis Scott Fitzgerald, un nostro parente, l'unica vendetta è vivere bene. Allora io sono andato, io ero già grande quando ho iniziato a lavorare a Palermo, l'esperienza dell'ora è stata meravigliosa, con Nicola Cattedra, un grande giornalista che andrebbe, un maestro del giornalismo che sovente non viene citato quanto occorrerebbe farlo. A un certo punto, nei giorni della guerra di mafia, io non riuscivo più a vivere in una città dove, se tu guardavi qualcuno negli occhi, queste persone ti dicevano in dialetto: che minchia c'è da lì, traduco, che minchia guardi. E mi sono detto: io non posso vivere in un luogo segnato dall'aggressività, dalla violenza, dalla bestialità, ho diritto alla mia felicità. Facevo il critico d'arte e quindi lavoravo con gli occhi, con lo sguardo, e ho deciso di venire a vivere nel luogo dove tutta la piccola borghesia palermitana sogna di vivere, Roma. Ti ho risposto? Mi hai risposto, sì, ahimè. Vedi, bisogna aderire ai luoghi comuni per poter poi comprenderne e distaccarsi. Allora, mia madre è morta 3 mesi fa, esattamente oggi, sono 3 mesi. Abbiamo fatto un bel funerale laico, l'ho fatta cremare. Parlo di mia madre perché è stata una figura di Tele 2 Ruoti molto importante, molto amata. E riposa nel cimitero di Sant'Orsola di Palermo. Io sono contento che lei stia lì, ma la sento ugualmente vicina, pur essendo, trovandomi a distanza. Sinceramente non riuscirei a vivere. Tu mi dirai: ma allora è una forma di tradimento, perché dovresti stare lì come Giovanna d'Arco di Brecht a difendere il territorio per il nome della legalità repubblicana. Non ce la faccio, Oscar. Mi auguro di andare via anche da Roma presto e trasferirmi a Un altro sogno piccolo borghese a Parigi. Con due G? No, con due G, no, ma perché dare così facilmente ragione al fatto che il diavolo è un ottimista e perché pensa di poter peggiorare gli uomini? Gli uomini possono migliorare. Lo so, però la vita è breve, sinceramente. Penso a certi aristocratici palermitani che a un certo punto abbandonarono la famiglia, dissero arrivederci e andarono a sputtanare tutti i loro averi a Parigi. Questo, ah, cioè questo sarebbe il tuo programma? Assolutamente. Donnine e sale da gioco? No, sale da gioco no, però... sale da gioco no, donnine sì, credevo dicessi il contrario. Assolutamente, anche uomini, perché l'uomo di mondo non è che deve farsi anche reclusioni sessuali. Esatto. Senti, domanda, invece questa di una vena intimista un pochino disgustosamente dolciastra, ma la bambina piccola che ha avuto, insomma, quanti anni avrà ormai? 7 anni, 8 anni la tua figliuola? Ne compie 9 fra breve. Ne compie 9. Fatta tardi. Ma, no, ma al di là del tardi, come ti ha mulcito la vita? Come ti ha ridotto uno straccio umano come chiunque di fronte a dei cuccioletti? No, non mi ha. Allora, intanto si chiama Carla ed ha un'indole, diciamo, particolare, una bambina abbastanza determinata. Vabbè, come tutte le piccole siciliane, già avvezza a comandare. No, un attimo, la madre è torinese. Roma. Quindi... siamo in una situazione, lei è nata a Roma, ho preso atto della presenza di questa persona che è un uomo più piccolo, diciamo, di dimensioni, quindi no, insomma, non c'è, sto al suo servizio, la porto a scuola, la riporto a casa, insomma, la porto a pattinaggio, queste cose terrificanti che mi costringono ad avere rapporti col genere umano normale. Per fortuna non è un maschio, perché col maschio c'è il rischio che devi andare in giro per campetti di calcio a litigare con gli altri genitori maschi che offendono tuo figlio perché non ha passato la palla a loro. Allora, un po' di messaggi sempre di questa bam raffica di acidità di troppo. Alcuni mi inducono a dire che io sarei tanto superiore, ma sono uno stronzo perché naturalmente ho appoggiato Berlusconi e la Lega. Bene, allora, tento di perdonarmi di fronte a costoro che non sono miei giudici e quindi gli ribatto l'accusa volentieri, perché evidentemente sono ciechi fanatici di una parte politica che ha almeno altrettanta responsabilità. Incazzatemi, ma io la penso esattamente così. Alla fine di questi 17 anni, se ho peccato all'inizio della cosa di Berlusconi è stato perché ero felice del fatto che nel 94 non ci fosse una sinistra che ereditava per il solo fatto di aver assistito a Mani Pulite essendone salvata. Io questo non la penso diversamente da allora, ma sicuramente credo di essere stato abbastanza tosto nel mettere all'angolo tutte le chiacchiere e le promesse non mantenute di questo centrodestra. Ricordo a coloro che se ne ascolto che io avevo una trasmissione su Rai 1, si chiama Batti Ribatti, quella che prima di me c'era stato Piggy Battista e prima di lui naturalmente Enzo Biagi, che io migliorai di 1.700.000 ascoltatori, e fu Silvio Berlusconi a mandarmi. A me non piace fare il martire come molti miei colleghi che danno poi colpe a questi o a quelli, ma prima di darmi dello stronzo, caro ascoltatore, che lo sei nell'anima evidentemente se il 26 mattina pensi di suscitare in me una parte di quell'acidità che ti regalerò finché mi terranno qua, perché evidentemente, caro il mio astioso, tenace, cieco, fanatico di sinistra, tu sei esattamente una della parte del problema italiano. E sapete che c'è? Che era proprio programmatico il fatto di farvi irritare un po' tra atalantini. Mica sono gli atalantini, sono quelli che pensano che la propria squadra non commette stupidaggini. Ne conosco tanti che sono amareggiati sul serio, come è amareggiato qualunque tifoso o qualunque partigiano. La vita è tifare per qualcosa e per qualcuno, anche ammettendo errori, certo, e tentando in questo di non credere di essere migliori degli altri. Quindi la mia presunta militanza nel centrodestra, che mai vi è stata, nasce da una radice, quella che non si ereditasse Italia per Mani Pulite, e di questo non mi pento, ma mi pento invece di non aver picchiato abbastanza in testa ai finti liberali. In questo, diciamo, gli ho dato un botte negli ultimi periodi, e su questo però perdonate, l'acidità è fuori luogo. E torniamo come tradizione sempre in chiusura anche da dove siamo partiti, perché c'è una circolarità nella storia. No, non voglio dire questo, c'è una permanenza dell'Italia su una nota che noi usiamo, quella di End Doors, per stuzzicarvi. Fulvio Abbate, ma l'ultimo Vasco Rossi che scopre i social network eccetera, ti sta simpatico o di che cosa invece è espressione? No, allora, alcuni hanno detto che rifate le due ruti. Questo non lo credo. No, a me fa tenerezza, mi pare giusto. Trovo ingiusto che i fan, anche quelli che un tempo in modo acefalo, ti faccio un esempio, ci vado da un'altra parte. Quando Kurt Cobain tentò di avvelenarsi a Roma e fu portato al policlinico, io andai lì a vedere, e le ragazzine, le sue fan dicevano: non è vero che si è avvelenato, prende sti farmaci perché c'ha l'ulcera. Ed era imbarazzante la loro difesa. Beh, gli stessi fan acefali di Vasco trovo ingiusto che lo abbiano aggredito nel momento in cui l'uomo era evidentemente fragile, come si vede in alcuni di questi cosiddetti clippini. No, mi fa tenerezza e mi pare giusto anche che possa avere un cedimento emotivo. Di la verità, l'hai letto il colloquio tra Scalfari e Cardinal Martini? No, ho letto dei frammentini che mi sono arrivati, però va detto una cosa. Allora, Scalfari ritiene d'essere un filosofo ed è giusto che noi glielo si faccia credere. Il Cardinal Martini è un giubilato della Chiesa, non conta più nulla all'interno della Chiesa, e credo bastino queste due considerazioni. Sì, devo ammettere che sia stato abbastanza implacabile. Allora, troviamo insieme un difetto a una persona che ovviamente ha grandi pregi, grandi meriti, ma che come sempre quando si diventa icone intoccabili, a me poi inizia a stare sui cabasisi, come dite voi in Sicilia, il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Secondo te il suo difetto qual è? No, ma io ho scritto cose terribili su Napolitano. Lo so bene. Allora, di Napolitano riferirò quello che diceva il suo amico, nonché mio amico, Napoleone Colaianni, grandissimo dirigente comunista, compagno di corrente, erano migliori di tutti e due. Fra l'altro, io ho ritenuto per tanti anni che Napoleone fosse uno stronzo, invece era una persona meravigliosa, era un vero comunista. Quando parlava, ricordava la sezione dei martiri dell'8 luglio del 60 uccisi dalla celere di Tambroni, gli venivano le lacrime agli occhi. Lo so, io ho un debole per Napoleone e per i repubblicani della sua famiglia, come sai, però storici. Vabbè, la tradizione, diciamo, marzignana repubblicana, suo omonimo. Una famiglia, diciamo, di aristocrazia intellettuale, quasi sì, insomma. E Napoleone di Colaianni, c'è un antefatto: Napoleone si aspettava che Napolitano e altri rompessero col PC e facessero un nuovo cartello che andasse con i socialisti. Lui riteneva che l'idea berlingueriana della diversità fosse una stronzata, questo pensava. Perché bisogna governare, la diversità è una sorta di monte sul quale titi. Vabbè. E Napoleone Colaianni, parola che io sottoscrivo, parlando del suo amico Napolitano, diceva: il coraggio non sa dove stia di casa. Ed è rimasto così il capo dello Stato, lo è ancora oggi, fedele a questo copione che allora fu in questa fotografia di parole illustrata da Colaianni? Io credo di sì, fondamentalmente sì. Fondamentalmente sì, e quando è andato a fare il ministro degli interni, la prima dichiarazione che fece fu: non siamo venuti qui al Viminale per aprire gli armadi. Ma come? Noi abbiamo preso acqua e vento ai cortei chiedendo verità su Spinelli assassinato, e tu, ministro degli interni, diciamo di traduzione ex comunista, arrivi lì e dici: non apriremo gli armadi. Allora che ci sei andato a fare? Ecco, bravo, sono d'accordo. Allora, e invece, un vizio non raccontato abbastanza di Berlusconi e del suo centrodestra? Allora, Berlusconi non raccontato abbastanza. Beh, ce ne sono, diciamo la letteratura dei vizi di Berlusconi è un po' più ampia di quella di Napolitano, però becchiamone uno non abbastanza arato. No, io ho una storia molto grave da parte di Berlusconi. Allora, una mia cara amica, Evelina Manna, sì, donò a Berlusconi un micetto. Loro avevano una storia d'amore, sì, insomma. Sì. Lei lo chiama Peluche, e ha regalato, Evelina ha regalato a Peluche, cioè a Silvio Berlusconi, un micetto d'angora, un persiano bianco e rosso, petto bianco. A un certo punto questo micetto è sparito, Silvio ha detto, cioè Peluche ha detto ad Evelina di averlo portato a Macherio, però capisci bene che è una colpa gravissima, soprattutto per noi che amiamo i gatti. Mamma mia. Dov'è finito Miele? Io l'ho posta questa domanda, e non è una battuta, non è cabaret alla quello lì che fa ridere a quelli di sinistra con tutte le battute scritte, Crozza. Dov'è finito Miele? Credo sia molto grave, insomma. Senti, c'è una battuta che non bisogna dire mai per radio, perché naturalmente è antitetica, ma quanta verità c'è nel silenzio? Se tu ci riesci, io da meridionale ho una vocazione da filosofo orale, quello che parla finché non gli emenano, quindi non riesco a tacere. Sul treno, quando eri giovane, ti spostavi in treno? Io mi ho fatto viaggi sempre solo in treno, ovviamente, non avendo altri soldi e dovendo battere l'Italia quando facevo politica. Ti spostavi molto in treno pure tu? No, io le cose più belle che ricordi del treno era andare a Catania in treno. Ti ricordi quel film, quella Sicilia meravigliosa che si vede in Sedotta e Abbandonata? Come no. Quel paesaggio bianco e nero, dove c'è come nel Messico del western, dove c'è quella roba lì era meravigliosa. Passando in questo grande sertao siciliano, che poi è quello dei racconti di Sciascia. Quella roba lì ricordo. Ma in quei treni lì tu ascoltavi o parlavi? Parlavi pure allora? Di cosa si parla in treno? Malattie e dispiacere. Ma è il racconto di questo paese, se ci permetti. Io infatti per quello, io ho imparato, tra virgolette, l'Italia, ascoltandola in treno da ragazzino. Malattie e dispiaceri, malanimi di famiglia e storie di vendette per eredità, diciamo, contese. È una ottima fotografia dell'Italia com'è invece di come si rappresenta, o no? Anche un'altra cosa, un giorno stavo in treno, ed ero ciò che sono, cioè il marchese Fulvio Abate, e ho incontrato un ragazzo che raccontava di fare un lavoro tremendo di manutenzione delle ciminiere. Passava la vita non come uno spazzacamino, come un alfredino cresciuto e mai uscito dal pozzo a pulire queste ciminiere, un lavoro che avrebbe portato chiunque a morire di quella malattia di quando ti senti chiuso, insomma, claustrofobia. E questa persona diceva, devo ringraziare di avere questo lavoro. Ecco, io pur essendo il marchese Fulvio Abate non starò mai dalla parte dei ricchi, starò sempre dalla parte di chi è costretto a infilarsi dentro una ciminiera per pulirla con uno scopettone. Ti abbraccerei, perché per la storia mia che vengo da Mirafiore la penso allo stesso modo, anche se nessuno ci crede, perché io penso che un po' di parecchia flessibilità in più darebbe una risposta migliore a chi noi oggi teniamo invece in una condizione incredibile nel nostro paese. Naturalmente non ho nessuna pretesa di essere la verità. Che cosa si può fare? Se fossi Monti gli dovessi dire fa una cosa per gli italiani che se la passano male, che gli chiederesti di fare? No, non sono in grado, Oscar. Napoleone Coiani diceva: senza comprendere l'economia si indora la realtà, non la si riesce mai a comprendere. Io non ci capisco una mazza di economia, è un mio limite. Posso dire una cosa, Fulvio? Sì. Per il solo fatto di aver concluso così, dai la spiegazione del perché è stato un bene sceglierti oggi, perché bisogna ammettere che ciò di cui non si sa, io tantissime materie, è meglio dirlo e dichiararlo. Grazie a Fulvio Abate per questa malmostosa trasmissione che abbiamo imposto, e leggete Matteo 13:16, beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano, dalla radio si impara. Lo diceva anche il Vangelo. Appuntamento a domani, si parla dei tassisti, domani la vostra liberalizzazione al centro della puntata. Lo so che siete in tanti, però domani ne parliamo seriamente. Grazie Fulvio Abate, grazie a voi tutti, ancora buon dopo Natale. Radio 24. Il Natale si sente.